Agosto, tecniche di sopravvivenza di Morena Rossi. Buongiorno, siete sopravvissuti la domenica di Ferragosto? Perché venerdì abbiamo parlato di Ferragosto e fra l'altro avevamo anche ricevuto un messaggio che non abbiamo avuto il tempo di leggere ma che vogliamo leggere oggi, perché diceva: il 15 arriva una mia amica da Roma, ci chiudiamo in albergo e non esco fino al 16. Mauro, chissà com'è andato il Ferragosto di Mauro. E il vostro? Io ho preso tutta l'acqua che si poteva prendere perché ieri, come avevano appunto pronosticato, c'è stato veramente il diluvio. Però oggi è the day after, oggi è il 16 agosto, abbiamo già scollinato, ci stiamo avviando verso la seconda metà di questo mese, il mese per il quale è bene avere delle tecniche di sopravvivenza, e noi siamo qua con voi, con Agosto, tecniche di sopravvivenza. E oggi ci trasferiamo al mare, fra l'altro nella seconda parte della puntata saremo addirittura ad Ibiza, niente po' di meno che Ibiza. Oggi ci vogliamo occupare dell'ombrellone. Che cosa succede sotto l'ombrellone? L'ombrellone di quest'anno magari, o l'ombrellone dell'anno precedente, insomma, o se state per andare in spiaggia. Chiaro, ombrellone inteso come la parte per il tutto, quindi la sineddo, che stiamo parlando della spiaggia, del mare, quindi tutto ciò che succede quando si è al mare, si è in vacanza, e le tecniche che si devono adottare per sopravvivere, per non essere schiacciati da quelli che sono in spiaggia come voi o sono in spiaggia con voi. In certe spiagge c'è addirittura più traffico che in città. Scusate, ha visto? Buongiorno, abbiamo buttato l'ancora. Il motore, può spegnere il motore, per favore? E come faccio? Vado a sbattere contro gli scogli. Il motore va spento a 200 metri da riva, sai, è pericoloso. Non lo dico io, ci sono delle regole. Mi scusi, sa. È contento? Grazie. Guarda, non si butta la roba in mare. Lo so che non si butta la roba in mare, lo so. L'hai trovata? Vuole che sia una goccia di cocombero, so ragazzi. Ma guardi che è biodegradabile, eh? È tutta roba naturale. Anche il telefonino. Che dici? È tuo. Cesaro Re. Mortacci. Quante volte vi è capitato di dover fare i conti con i turisti sconsiderati? Neanche maleducati, quelli sconsiderati che sono ancora peggio, perché nemmeno se ne accorgono di essere dei rompiscatole o comunque di dare noia alle altre persone che sono in spiaggia o che sono al mare e si vogliono godere la tranquillità del mare. Ma raccontateci le vostre storie di ombrellone. Quante volte vi è capitato di essere disturbati, molestati, infastiditi, insomma, e come vi siete difesi? Raccontatecelo al 349-238-6666 oppure chiamateci in diretta all'800 24 0024 con le vostre storie di ombrellone, oppure ci sono anche, c'è anche l'email agosto@radio24.it. Ma avete mai incontrato quelli che ti camminano sul telomare e te lo riempiono di sabbia, quelli che sbattono il telomare sopra vento e ti riempiono i denti di sabbia, quelli che si portano da mangiare la lasagna e il brasato del giorno prima e ti riempiono le narici di aromi decisamente invernali, quelli che si urlano le definizioni della settimana enigmistica da un lettino all'altro e ti riempiono le orecchie di risposte improbabili, quelli che ti vogliono vendere collanine, cavigliere, pareo, cappellini e ti riempiono di cose inutili e inutilizzabili, quelli che fanno il gioco aperitivo e ti fanno cantare le canzoncine del villaggio pensando che tu abbia bisogno di riempirti la giornata. Chissà perché nessuno riflette mai sul fatto che vacanza deriva da vacuo, cioè vuoto. Il bisogno di fare vuoto intorno, di svuotarsi, di togliere, insomma, un po' di sottrazione, di essere lontano dalla pienezza della quotidianità lavorativa. Tutti ci vogliono riempire il tempo. E voi come vi difendete in spiaggia? 800 24 0024 o i vostri sms al 349 238 6666 per raccontarci le vostre situazioni da ombrellone, come vi hanno riempito il tempo che invece volevate avere sgombro da qualunque impegno. Ma abbiamo anche chiesto un po' in giro come si comporta la gente, per esempio, nei confronti del vicino di ombrellone molesto. Ma molesto o modesto? Ci sto se sono belli. Cerco di fargli capire che sta sbagliando. Quando ero giovane mi capitava, adesso non mi capita più, purtroppo. Però ecco, vorrei che qualcuno mi molestasse. Mi volto dall'altra parte. Mi tiro una secchiata d'acqua. Comprarsi dei sacchettini di formiche rosse. Indifferenza. Alzo la musica al massimo. Gli chiudo l'ombrellone a mezzogiorno. Se qualcuno rompe le palle non lo lascio rompere per più di un minuto, per cui reagisco subito. Ombrellone? D'estate? Siamo matti, e l'abbronzatura? Io da buona milanese non vado mai in posti dove posso conoscere qualcuno perché non ho voglia di fermarmi a parlare. Se qualcuno mi disturba sotto l'ombrellone, scorreggio. Beh, sono tecniche utili, alcune ma anche discutibili, eh. Ma la signora che mi ha detto molesto o modesto, ne vogliamo parlare? Cioè, come sarà il vicino di ombrellone modesto? Da cosa si capirà che è modesto? Ma vabbè, lasciamo stare. Comunque c'è anche chi mi ha detto l'ombrellone, ma scherziamo, io voglio prendere il sole. Ecco, il sole, bisogna stare attenti a prendere il sole, bisogna cercare anche lì di avere delle tecniche di sopravvivenza, perché il sole va preso, ma in un certo modo. Adesso è arrivato anche un personal UV monitor che calcola il tempo massimo di esposizione al sole in base ai raggi UVB assorbiti, alla temperatura, al tipo di pelle e alla crema usata. Insomma, è una specie di consulente elettronico per l'abbronzatura sana e si può acquistare su Amazon. Quindi se volete sapere se state facendo la cosa giusta, se potete stare fuori dall'ombrellone, insomma, c'è questo personal UVB monitor. Ma l'ombrellone è anche gioco, è anche appunto in spiaggia. Si fanno un sacco di giochi, quelli che insomma magari si giocano a racchettoni sul bagnasciuga e poi vi lanciano la pallina sul naso mentre vi state addormentando. I giochi che se li fate voi va sempre bene, se poi li fanno gli altri vi disturbano, vi rompono le scatole, appunto, perché sono quelli che giocano a biglie e appunto la biglia va a finire sul vostro telomare. Insomma, che cosa succede con i giochi, con gli scherzi d'estate? L'estate e la spiaggia chiamano anche e soprattutto questo. Allora, questo qui è il gioco della spiaggia. Tu metti le mani sul culo, Ma mi vergogno. Senti, ma non ti preoccupare. Così. Ci vedi? No. Dai, ecco, allora metti le mani. Come? Senti. Tanta com'è? Roba. Com'è? Bello, bello. Sì, è bello. Che fai? Questo è un gioco italiano. Quello che mette le mani, quello che mette un mao, è il furbo dei due, e quello invece che mette un culo boom boom, quello è il loco, hai capito? Cioè, ho un gioco che sa fa se sulla spiaggia, sulla spiaggiau in Italia. Uno si mette come a pecorau, no? E l'altro da dietro mette le. Gli dà proprio una botta, hai capito? Quali sono i vostri giochi in spiaggia? 800 24 00 24 per raccontarceli, oppure i vostri messaggi al 349 238 6666. In questo caso a Battantuono gli è capitato di mettere, gli hanno fatto uno scherzo, l'hanno bendato e ha messo le mani sulle chiappe di un uomo. Insomma, quali sono i vostri giochi di spiaggia e cosa vi è successo magari mentre giocavate in spiaggia? Avete mai trovato, non so, la vecchietta che vi bucava il pallone, qualcuno che vi ha demolito la pista delle biglie volontariamente o sequestrato il frisbee magari? Quali sono le vostre tecniche di sopravvivenza? Avete mai fatto delle risse in spiaggia perché appunto stavate giocando, volevate divertirvi, volevate scherzare e qualcuno invece non ha colto lo scherzo? Raccontatecelo all'800 24 00 24 o i vostri messaggi al 349 238 6666. Sì, poi magari appunto la spiaggia è affollata, ci sono quelli che fanno i giochi, ci disturbano, e noi cosa decidiamo di fare? Decidiamo di andare in mare, di fare un bagnetto, ma nel mare becchiamo quelli che come gioco lanciano il sasso, quelli che fanno rimbalzare la pietra, no? Quante volte la facciamo rimbalzare sul pelo dell'acqua? Ecco che poi quando stai nuotando, proprio mentre prendi dopo per respirare, insomma, la bracciata, sali per respirare, ti becca in testa. E l'abbiamo fatto tutti, di lanciare almeno una volta il sasso, no? Addirittura in inglese c'è un nome per questo gioco, sport, non so come si voglia chiamare. Si chiama lo stone skipping ed esiste persino una federazione, la NASA, North American Stone Skipping Association. Si organizzano campionati, manifestazioni, insomma, sembra una cosa così da ragazzini. Invece ci sono addirittura delle riviste scientifiche che se ne sono occupate, per dire, hanno cercato di capire se questo fenomeno, ci fossero delle formule matematiche per capire che come si fa a far saltare tante volte il sasso, più volte, ci sono dei record mondiali chiaramente su quante volte si fa saltare il sasso sul pelo dell'acqua, e addirittura è stato confermato che la forza con cui viene scagliato il sasso, adesso lo dico per chi si vuole adesso cimentare in un salto del sasso lunghissimo, allora la forza con cui viene scagliato il sasso non è così importante rispetto invece all'angolo di impatto con l'acqua, che dovrebbe essere idealmente intorno ai 10 gradi. ci sono addirittura nella Notte dei Tempi, ci sono dei racconti, per dire, Omero raccontava una sfida mitologica fra Giasone ed Ercole, però i sassi non, cioè, i sassi erano sostituiti dai, degli scudi. Shakespeare, nella versione originale dell'Enrico V, parla di far saltare pietre sull'acqua. Mentre una famosa leggenda vuole che George Washington sia riuscito a far rimbalzare un dollaro d'argento da una riva all'altra del, del fiume Potomac. Beh, incredibile, anche il rimbalzo della pietra ha una sua storia. È lei che ci sta, mi guarda di già, tra un'ora lo so, è mia. Se dico di no, si butta nel po'. Agosto, tecniche di sopravvivenza. Oggi stiamo parlando di come si sopravvive sotto l'ombrellone. 800 24 0024 per raccontarci le vostre storie da ombrellone e 349 238 6666 per i vostri messaggi. Ma quali sono le vostre tecniche, appunto? Come riuscite a dribblare i vicini di ombrellone che vi rompono le scatole, oppure quelli che giocano in spiaggia e appunto disturbano? Le rotture però sotto l'ombrellone arrivano spesso anche da chi ti vuole vendere qualcosa. Oltre ai soliti cocco bello che ti si infilano nelle orecchie proprio mentre ti stai addormentando, ci sono anche i venditori ambulanti, quelli che ormai sono attrezzatissimi, vendono qualunque cosa e vengono lì e cercano di contrattare con te non so, il prezzo di un pareo che proprio non puoi non avere. E lì Ale, disturbi su disturbi. Addirittura il comune di Grosseto ha deciso di dotare i venditori ambulanti autorizzati, perché ci sono quelli autorizzati, ci sono quelli abusivi. Quelli autorizzati hanno una maglietta gialla per distinguere appunto da quelli abusivi, ma c'è anche chi ha deciso di seguire questi venditori sulle spiagge italiane per fotografarli, ed è il fotografo Gianfranco Maggio che ne ha fatto addirittura una mostra ed è con noi al telefono per raccontarci com'è questo progetto. Gianfranco? Sì, ciao Morena. Ciao Gianfranco. Allora, com'è nato questo progetto? Come ti è venuta l'idea di fare una mostra fotografica fotografando i Vucumprà, come è il titolo poi della tua mostra? Niente, il progetto è nato appunto perché ero in spiaggia quest'estate e c'era questa interminabile sfilata di Vucumprà che mi sembravano tantissimi. Uh-huh. E tutti carichi di prodotti, di merci di ogni genere, tutti assemblati sul di loro in maniera bizzarra, bravissima, che sembravano veramente degli abiti di alta moda, dei modelli. Beh, per esempio io ho in mente quelli che si mettono tutta la fila di cappelli sulla testa. Sì, la fila di cappelli sulla testa, ma anche i sandali su dei bastoni che sembravano dei prolungamenti del vestito, dei loro abiti. Allora, niente, dopo averli studiati per un paio di giorni, ho appunto deciso di mostrarli in qualche scatto fotografico e, cioè, poi avendo il lavoro davanti, ho visto che comunque era un lavoro interessante. Certo. Ma poi hai avuto modo anche di farti raccontare qualcosa da questi signori che tu hai fotografato, o li hai solo fotografati? Qualcuno l'ho un po' conosciuto, devo dire che molti sono molto resti a parlare, nel senso che ti parlano del loro merci, non della loro vita personale, delle loro avventure e disavventure, su come sono arrivati qui. Qualcuno si è un po' più lasciato andare, insomma, mi ha detto, insomma, che arrivava dal Senegal piuttosto che da altri paesi e insomma, mi ha raccontato in maniera chiaramente non approfondita un po' la sua storia, ma sì, generalmente invece sono molto molto comunque resti nel dare informazioni. Certo. E tu come li hai visti di fronte all'obiettivo? Cioè, si facevano fotografare senza problemi o ci sono stati, non so, degli aneddoti particolari, qualcuno che ti ha risposto? No, non è stato facile, devo dire, trovare chi si prestasse a questa a fotografare, perché appunto molti sono poi purtroppo hanno delle storie di immigrazione, magari sono clandestini, è chiaro. Erano veramente, scappavano davanti all'obiettivo, si nascondevano, si giravano dall'altra parte, piuttosto che, io devo dire, non li ho messi in posa in questi scatti fotografici. Gli scatti fotografici sono un po' rubati e dopodiché li ho fermati in una maniera, cioè, nel momento successivo, a chiedere un po', guarda, vi ho fatto un po' di scatti e perché non volevo la foto messa di loro che posassero, insomma, davanti alla macchina fotografica, ma volevo rubare comunque dei momenti di vita reale. Certo, insomma, giusto. Anche il mio genere di fotografia è sempre un po' rubata, non è mai costruita a priori, perché mi piace catturare appunto la naturalezza dei soggetti e non la costruzione, insomma, dell'immagine. Certo, e dove la vediamo questa mostra? Dove la vediamo e quando? Questa mostra sarà ospitata da Polifemo dal 13 al 25 di settembre, per cui siete tutti invitati a... Benissimo, quindi andiamo a vedere i tuoi scatti, anzi la tua tecnica di sopravvivenza contro i venditori ambulanti. Li hai fotografati e ne hai fatto un lavoro, eh? Grazie mille. Grazie mille, ciao, ciao Gianfranco. Ciao. Vamos a la playa, al fin el mar es limpio, no más peces hediondos, sino agua fluorescente. Vamos a la playa. .00 24 0024 per raccontarci le vostre storie da ombrellone o i vostri messaggi al 349-238-6666. Oggi si parla di spiagge, di mare, di come sopravvivere alle insidie di una spiaggia magari affollata, come guardarsi da chi ci infastidisce, dai suoni rumorosi, dalle chiacchiere, le suonerie del telefonino, insomma le vostre storie all'800-24-0024 o i vostri messaggi al 349-238-6666. Ci scrive un ascoltatore: la prossemica delle spiagge è una scienza affascinante. Le famiglie con bambini sembrano ignorare le distanze. In ogni caso, esporto la tecnica di deprivazione sensoriale che uso sulla metropolitana affollata. iPod nelle orecchie e occhiali da sole. Ciao, Stefano. Oppure c'è qualcuno anche che ci scrive: vendono anche coperte da portare in spiaggia con questo freddo, relativamente ai venditori ambulanti appunto che ci sono sulle spiagge. Ma ci sono, parlavamo anche di giochi, no? In spiaggia si fanno un sacco di giochi, di scherzi, sotto l'ombrellone si deve impiegare il tempo in qualche modo, c'è chi legge dei libri, c'è chi magari ha l'iPod o appunto l'iPhone e si è scaricato qualche giochino, non so, il Sudoku. Io adoro per esempio il Tangram. Ci sono questi giochi che non danno fastidio a nessuno, che uno può fare così nella solitudine del suo ombrellone senza rompere le scatole a nessuno. Oppure ci sono i tradizionalisti, quelli che fanno le parole crociate. La settimana enigmistica, che è il classico sotto l'ombrellone. Quanti di voi ne hanno avuta almeno una, volta, oltre alle solite riviste di gossip? Ma l'enigmistica è veramente un classico e vogliamo parlarne con uno che di enigmistica se ne intende, ed è Claudio Batta, comico di Zelig. Lo abbiamo visto anche in Belli Dentro a giugno ad Aria Fresca con Carlo Conti. Claudio, come ci si deve comportare con l'enigmistica? Ecco, innanzitutto ben trovati a tutti. Buongiorno a te. Beh, cosa bisogna fare? Beh, le parole crociate, l'hai detto un po' tu, sono un po' un evergreen, non passano mai di moda. È per quello che mi sono legato alle parole crociate, all'animistica, così mi piace non passare mai di moda, vedi che? Vedi? E quindi sì, come dicevo io qualche anno fa quando ho scritto il primo libro intitolato Utto bene, appunto l'animistica, lì... ecco, io parlavo di questo libro dicendo è un libro da ombrellone. Mm-hmm. Libro o da ombrellone o da cesso. È utile, è comodo perché si possono leggere poche battute e poi si può andare a fare il bagno se si è sotto l'ombrellone, oppure tirare lo sciacquore se si è in bagno. Dire quello che stai facendo e quindi ecco, sotto l'ombrellone sì, l'enigmistica, l'animistica come la chiama Capogenere, si fa almeno una volta in estate, viene fatta. Certo, ma raccontami, non so, delle cose classiche o dei anche lì appunto delle cose, degli evergreen di definizioni, perché io, a me capita ogni tanto di farli, però ce ne sono alcune che sono sempre le stesse, cioè, sì, no? Sì, è vero che si trovano sempre le solite cose, non so, tipo le iniziali, no? Quando trovi lì, esatto, lettere, non so, l'arcuriatrice. No, io scrivo sempre no quando... Poi vabbè, un evergreen è il classico 10 romano, no? Sì, che è Totti. però è piccolino, due caselle. Non ci sta. Se lo scrivo piccolino ci sta. Già. Poi fino ad arrivare alle ultime definizioni, quelle che mi sono venute in mente, tipo, non so, un otto orizzontale, pere al cioccolato, Naomi Campbell. Un po'... Anche questa. Fino a un bollito piemontese, l'Apo Elka. Oppure, non so, un altro sul bollito è accompagna il bollito, la Gregoraci. Un 34 verticale, essere di cui non si butta via niente, Belen. Eccola, e vai, siamo molto di attualità. Quando tocchiamo i personaggi famosi funziona molto, ecco, quando tocco i personaggi famosi funziona. Bene, ma tu quest'anno per esempio dove andrai in vacanza? Se vai in vacanza. Ecco, brava, hai detto una parola giusta, se vado in vacanza. No, diciamo che sono in giro con la tournée estiva. Ah, bene. Quindi... dove vado, insomma, faccio vacanza. Adesso ho appena finito di fare la mini tournée sicula, e quindi insomma ho toccato un po' di città, da Palermo dove ho fatto spettacolo a Mondello e Terrasini, poi sono andato a Marsala, sono andato ad Agrigento, sono andato a Marina di Ragusa. Hai girato l'Italia, insomma. Ho girato la Sicilia in questo caso. In questo caso, e poi sto girando adesso, poi insomma prossimamente andrò a Porto Santo Stefano in Toscana, le Marche. Sarò il 18 per esempio, sarò a Castione in provincia di Bergamo. Ah, ok. Il giorno dopo, per fare una cosa comoda, sarò a Frosinone. Fantastico. Questa è la mia estate. Bene, ma ti porti sempre delle, non so, il Bartezzaghi da finire? Certo, assolutamente. Grande Bartezzaghi. Sì, no, poi c'è la gente che si domanda ma cosa fa un personaggio di spettacolo durante l'estate. Beh, innanzitutto lavora, perché dice, ma non ti ho visto in televisione, non ti ho più visto, cosa stai facendo? Noi facciamo, quando non facciamo televisione, facciamo quello che abbiamo sempre fatto prima di fare televisione, quindi facciamo spettacoli dal vivo, siamo in giro per l'Italia. Poi se ci incastra un tuffetto, una spiaggia e una parola crociata, facciamo. Bene, benissimo. Quindi ci vediamo, mi sembra di capire, il 18, giusto? In provincia di Bergamo, dico bene? Sì. Perfetto, se ci sei, sì. Chiaro, grazie mille, ciao Claudio. Grazie, ciao, buona giornata. Agosto, tecniche di sopravvivenza. 10:34, oggi stiamo parlando di come sopravvivere sotto l'ombrellone. I vostri messaggi al 349-238-6666, scusate, oppure le vostre chiamate all'800 24 0024 per raccontarci di come sopravvivete sotto l'ombrellone. È arrivato un messaggio molto divertente, sembra un messaggio dadaista o futurista, e dice tac toc, tac toc, tac toc, tac toc, tac toc, tac, tumf. Scusi, ha visto la pallina? No, perché si parlava di come, insomma, veniamo disturbati continuamente sotto l'ombrellone da quelli che appunto magari giocano a racchettoni sul bagnasciuga e poi gli scappa la pallina e vi arriva sempre addosso, chissà come mai. O comunque stiamo parlando di che cosa fate voi, di come vi occupate, come occupate il vostro tempo sotto l'ombrellone, in spiaggia, al mare, che cosa siete soliti fare. Abbiamo sentito la settimana enigmistica, che è questo evergreen, appunto, gente che fa le parole crociate per far passare del tempo, oppure gente che va a fare il bagno e poi si becca quelli che fanno il lancio della pietra e se lo beccano in testa. Insomma, che cosa state facendo voi sotto l'ombrellone, o che cosa avete fatto, come siete sopravvissuti negli anni ai disturbi, ai fastidi che si vengono a creare in spiaggia. 349-238-6666, oppure chiamateci in diretta all'800 24 0024. Ma vediamo che cosa è successo nella storia proprio oggi. 16 agosto 2009. Usain Bolt abbassa il record dei 100 metri piani a 9,58 secondi ai Mondiali di Berlino 2009, quando la sabbia scotta. 16 agosto 1972. Sergio Mariottini, giovane sub romano, ritrova casualmente nelle acque di Riace due statue in bronzo del V secolo a.C., ottimamente conservate. Quanti simili bronzi di Riace ci sono quest'anno in spiaggia? 16 agosto 1982. Viene prodotto il primo compact disc per l'utilizzo commerciale. Il CD in questione è l'album musicale The Visitors del gruppo svedese ABBA. Mancano ancora alcuni anni all'iPod, ma sfido chiunque a non avere almeno una delle canzoni degli ABBA nella loro playlist. Di sopravvivenza. Oggi ci stiamo occupando di come sopravvivere sotto l'ombrellone. 800 24 0024 per chiamarci in diretta o i vostri messaggi al 349 238 6666. Sì, sotto l'ombrellone possono succedere un sacco di cose dalle quali è bene guardarsi o avere il nostro vademecum con le tecniche di sopravvivenza, perché soprattutto in agosto, quando sono molto affollate, può succedere di tutto. Quindi ci sono i bambini che schizzano l'acqua, ci sono i venditori ambulanti che rompono le scatole ogni due minuti, ce ne sono, c'è sempre qualcuno che vuole venderci qualcosa, ci sono i vicini di ombrellone molesti. È arrivato un messaggio molto, molto divertente che dice: alla mia bimba di 3 anni e mezzo io ho insegnato a dire non tengo di nero ai Vucumpra. Quindi ecco le vostre tecniche di sopravvivenza al 349 238 6666, o chiamateci all'800 24 0024. Se vi è mai successo, insomma, di litigare magari anche con il vicino di ombrellone, perché insomma era insopportabile, perché a volte è vero, può capitare, ci vuole chiaramente un po' di tolleranza da parte di tutti, ci vuole la giusta distanza anche dal vicino di ombrellone e cercare di gestire un po' il vicinato. Per esempio, quelli che arrivano in spiaggia e all'ora di pranzo cominciano ad imbandire il telo mare come se fosse il pranzo di Natale, come se fosse la tavola del pranzo di Natale, e non solo per la quantità di roba cominciano a scartare da questi tupperware, dalla carta stagnola eccetera, ma anche per le calorie dei piatti che si sono portati. Sembra Natale, a parte che con questo freddo forse ci potrebbe stare il brasato in spiaggia, ma comunque, che cosa è bene mangiare sotto l'ombrellone? Noi ci siamo anche domandati questo, perché si arriva in spiaggia e insomma non si sa se è giusto mangiare a pranzo, se è giusto fare una ricca colazione o altro. Abbiamo deciso di chiamare un'esperta per parlarne un po', la professoressa Rosalba Mattei, docente di scienze dell'alimentazione all'Università di Siena. Buongiorno professoressa. Buongiorno a lei. Buongiorno. Allora, è bene sapere davvero qualcosa per comportarsi anche con l'alimentazione quando si è in riva al mare, o vale la stessa regola per tutto il resto dell'anno? No, io direi benvenuta alla vacanza. Bene. Perché molto spesso, ecco, ci si rifugia quando non si mangia troppo bene, così non c'ho tempo, la vita è piena di stress e non c'ho orari. Quindi finalmente davanti all'ombrellone, oppure diciamo anche sulla montagna, perché sempre di vacanza si parla, possiamo avere tutto il tempo per dedicare alla nostra salute, approfittando dei prodotti che natura ci mette a disposizione in questo periodo. Quindi frutta e verdure ricche di acqua, ricche di vitamine, di antiossidanti, quindi attingiamo a piene mani a quello che la natura ci dà in questo momento dell'anno. Certo, ma le alte temperature, per esempio, se uno sta tutto il giorno in spiaggia, deve mangiare comunque a pranzo, è giusto che ci sia sempre la pausa del pranzo o può fare anche solo una ricca colazione? Senta, io ricalcherei il concetto dei 5 pasti al giorno. Perché la pausa pranzo, sappiamo che noi viziosi, mi posso mettere anche nel senso del mare, ecco, amiamo anche l'età del pranzo, il momento del pranzo, perché è anche più tranquillo, però direi che quell'oretta, quantomeno quell'oretta, oretta e mezzo di punta, di evitarla. Questo lo consigliano tutti, anche per molti altri motivi, al di là dell'alimentazione. Certo. Proprio per poter godersi finalmente un pranzo salutare, un pranzo che sarà a base di verdure, cioè mettiamo tanti colori nel piatto, sa, sono molti anni che si parla di questi colori, ma effettivamente c'è un significato dietro i colori dei prodotti alimentari. Uh-huh. Quindi sediamoci a tavola, mangiamo queste insalate, mangiamo frutta dal melone alle prugne e beviamo acqua. Quindi ci serve per idratarci, per rinfrescarci un po', e poi magari dopo possiamo tornare sulla spiaggia e non è detto che dobbiamo sempre stare proprio spalmati al sole. Già, anche questo. Dire anche sì, stare sotto l'ombrellone, prendere l'aria del mare, leggere un bel libro, anche quello fa parte della vacanza e della salute, e in fondo è un lusso che ci possiamo concedere, perché durante l'anno tutte queste pause non si possono fare. Non si possono fare. Certo, è una tecnica di sopravvivenza che magari lei mette in atto quando è al mare. Per esempio, lei è già stata al mare quest'anno? Io sono stata già qualche giorno al mare. Perfetto. E devo dire che appunto ho approfittato di questa pausa per ricordarmi di fare qualche cosa per me. Quindi anche con l'alimentazione, magari mangiare qualcosa che non si mangia durante l'anno? Senta, mangiare, mangiamo di tutto. L'importante è mangiare, ripeto, poi al mare capisce bene che con il pesce, parlo di pesce, pesce con le lische, cioè proprio quelli sono dei pesci ricchi di omega 3, sappiamo l'importanza di questi acidi grassi per il nostro organismo, e poi è un prodotto fresco. E certamente viene dal mare che oggi abbiamo, ma comunque sia in questo ambiente viviamo, e quindi cerchiamo di pensare a quello che c'è di positivo, piuttosto che molto spesso ai rischi correlati acquisitivi di alimenti. Certo. Beh, grazie mille professoressa Mattei, e quindi buona vacanza, buona continuazione anche a lei. Grazie e buona vacanza a voi, arrivederci. Arrivederci. Agosto, tecniche di sopravvivenza. 10:46, oggi ci stiamo occupando delle tecniche di sopravvivenza per sopravvivere sotto l'ombrellone, quindi in spiaggia, al mare. I vostri messaggi al 349-238-6666 o le vostre telefonate all'800-24-0024. Arrivano dei messaggi abbastanza divertenti, alcuni anche tragici. Per esempio questo dice, sotto l'ombrellone si arrabbia ancora di più, morale, 2 su 2 si arrabbia ancora di più, morale, si sono quasi accoltellati, meno male che c'erano i vigili, saluti Fabio. Bisogna stare attenti quindi ai vicini di ombrellone molesti. Oppure, il mio periodo di permanenza sotto l'ombrellone è brevissimo e limitato ad una rapida occhiata al giornale, dopodiché una bella nuotata al largo lontano da tutte queste categorie di rompipalle. Ciao Attilio. Ma c'è anche un sms che ci sta così introducendo verso l'ospite che stiamo per avere, di cui abbiamo parlato anche all'inizio della trasmissione. E Max da Pinerolo mi dice: al mare vado a novembre, per motivi di lavoro, di solito in Egitto. La fatica più grossa è sfuggire agli animatori dei villaggi, fastidiosissimi. Sì, perché qualcuno non li sopporta, ci sono i giochi aperitivo, ci sono le canzoncine che si devono cantare e vogliono sempre farti fare qualcosa. Ma noi abbiamo deciso oggi così, anche per far sentire un po' al mare quelli che non sono al mare, quelli che sono rimasti in città, quelli che appunto oggi sono al lavoro e invece vogliono sentirsi un po' là, in spiaggia, anche con le rotture di scatole di quelli che ti fanno cantare la canzoncina. Insomma, bisogna un pochino anche assecondarli, dai, quando si è in vacanza loro sono lì apposta, sono degli animatori, sono appunto degli intrattenitori. Adesso non sono tutti alla Fiorello, però insomma qualcosa di divertente salta sempre fuori, e allora abbiamo deciso di parlarne oggi con Roberto Pellegrino, il capovillaggio del villaggio Bravo Aura Ibiza di Alpitour. E se non siete in spiaggia anche voi, potete sentirvi in spiaggia con Roberto. Roberto! Eccoci, buongiorno a tutti. Ciao Roberto. Allora, le tecniche... Io faccio parte della categoria dei rompiscatole. Eccola. Ascoltavo prima, sì sì. Eh sì, perché ci sono quelli che non vedono l'ora di essere intrattenuti dai Roberto della situazione, e quelli che invece proprio devono fuggire, no? Per sì, non essere... Scappano, ci tengono soltanto così puntati, appena ci vedono scappano via. Però dai, diciamo che la maggior parte ci vogliono bene. Dai, ma certo, diciamo. Ma tu sei a Ibiza quindi in questo momento, giusto? In questo momento sono a Ibiza, sì, sono a Ibiza dopo i postumi del Ferragosto. Abbiamo fatto una festa bellissima anche qui, perché la maggior parte degli ospiti sono italiani e ci siamo insomma divertiti alla grande tutti insieme. Grande Ferragosto a Ibiza, quindi. Sì. Però non eravate sotto l'acqua voi? No, vedi? c'era un bel sole. La sì. fortuna. Senti, ma le tecniche di sopravvivenza invece per un animatore, perché tu dovrai avere le tue, perché è vero che poi magari la gente pensa che rompi scatole, però anche tu avrai insomma il tuo bel da fare, no? Con quelli che sono in villaggio. Abbastanza, diciamo che ci diamo molto da fare, è un lavoro insomma dove lavori praticamente 12 ore al giorno, però lo fai in assoluto divertimento. Poi devo dire la verità che comunque noi nei Villaggi Bravo tutti gli staff d'animazione non impongono assolutamente niente, anzi propongono soltanto 1000 attività. Poi la nostra politica è quella comunque di lasciare l'ospite libero di scegliere la vacanza che preferisce. Certo, ma senti, raccontami come nasce la tua idea di voler fare l'animatore, per esempio. Cioè, una passione, hai visto da bambino un animatore che ti è piaciuto molto o perché? No, in realtà io da bambino ho visto un animatore che mi piaceva molto ed era insomma stile Fiorello, era simpatico, estroverso, era il numero uno del villaggio, però la mia avventura è capitata un po' per caso, non so, magari sono un po' un caso a parte, perché io in realtà facevo il ragioniere. Tutt'altra cosa, quindi. Esatto, mi è capitato tutto per caso. Un giorno sono andato a fare questo colloquio alla nostra agenzia, mi hanno preso e insomma dopo quasi 10 anni sono ancora qui, quindi vuol dire che merita, anzi sì. 10 anni? Eh sì, sono quasi 10 anni ormai. Sì. Caspita, ma sempre a Ibiza o tu cambi? No, sempre a Ibiza, poi mi portavano alla Neuro, no. Sempre a Ibiza no. No, noi giriamo, siamo, lavoriamo ogni stagione e si cambia villaggio. Quest'inverno ero al Bravo di Charm, adesso a Ibiza, l'anno scorso ero ancora qui, ma è stato un caso, insomma. Ma per esempio noti qualcosa di diverso tra i turisti che vengono, che ne so, appunto a Ibiza e quelli che invece vanno in un altro luogo? Un modo diverso di stare con l'animatore in base anche al luogo geografico in cui ti trovi? Diciamo che Villaggi Bravo vuole nascere come una famiglia, o almeno noi ci proviamo, quindi tendiamo a portare sempre gli stessi ospiti in villaggio. È normale che poi dipende sempre dalla location. A Ibiza ti arriva il ragazzo col capello viola, ma anche la famiglia. Sì, perché non mancano mai qui, devo dire la verità. Quelli un po' estrosi. Sì, proprio questa settimana abbiamo due ragazzi con capelli rossi e fucsia, quindi insomma, però devo dire che ci sono anche molte famiglie, anche perché noi abbiamo la nostra ciliegina sulla torta qui al Bravo di Ibiza, come tutti i Bravo, sono l'intrattenimento per i bambini. Abbiamo una grossa fetta, una grossa fascia di Bravo Bimbo, insomma, che si occupa di tutti i bambini dai 3 ai 17 anni. Senti, ma una curiosità, ma sì. In confidenza, perché io in un villaggio non ci sono neanche mai stata. Nessuno, esatto, no? Io non ci sono mai stata, ma tutto quello che si dice sugli animatori che hanno questa facilità di approccio, cioè è vero? Il problema è che sei in radio e quindi non mi puoi vedere. Vabbè, cosa vuol dire? Ma no, al di là, se tu mi vedessi capiresti che non è sempre così. Ah, non è sempre così facile. Non basta essere animatore per avere, non so, un sacco di no, donnine devo intorno. Un po' è vero, ma il fascino della divisa sarà, insomma, il savoir-faire, lo spettacolo serale. Siete dei simpaticoni, siete dei piacioni. Sì. Poi c'è sempre il piacione di turno. Io, per esempio, a fianco a me ho il capo animazione, il capo animazione qui della Rabizza, che è un piacione incredibile. È stile Patrick Swayze romano, una cosa... Sì. Ecco, lui, per esempio, ne becca parecchie, devo dire la verità. C'è una gara, quindi. Sì, fanno le gare, ragazzi. Io ormai, insomma, quello che potevo dare in gioventù, perché adesso ho fatto crescere la pancia e insomma è finita. E ti sei messo a riposo. Animatore in pensione. Senti, tanto per lasciarci così, visto che sei appunto in un villaggio, non so se i tuoi ospiti sono lì con te, adesso hai qualcuno. Ci lasci? Adesso, guarda, io una sorpresina ve l'avevo preparata. Ah, vai! Perché ci sono i ragazzi, adesso esco fuori perché prima ero in ufficio. Sono i ragazzi, i bambini del Bravo Bimbo, che volevano dirvi una cosa. Adesso non so se loro ci sono. Ci sono? Ci siete voi bambini? Guarda che sono qui, abbiamo preparato una sorpresa perché volevamo salutarvi in diretta. Ma ci teniamo, sì. I bambini a farlo. Possiamo? Certo! Vai, pronti? Ce l'avete? Vai, vi lascio il telefono. Arrivano, eccoli. Ecco, io volevo salutare, sì, i bucciolotti del villaggio. Dai, no, andiamo anche noi in radio. Ma che qua. Meraviglia, grazie mille Roberto, grazie per averci fatto sentire un po' a Ibiza, anche noi che siamo qua. posso soltanto rubare 30 secondi? Vai con i 30 secondi. Volevo fare un piccolo spot per tutti coloro che non sanno cosa fare, quindi non hanno non hanno lavoro. Si dice che in Italia ci sia la crisi, venite a trovarci, perché noi abbiamo sempre bisogno di nuovo personale, e ho soltanto un sito che è www.movida.cc. Ah, fantastico, quindi per fare... mamma. Naturalmente, grazie mille Roberto. Grazie mille a voi, ciao, buona giornata. Ciao, ciao. Sulle labbra tue dolcissime un profumo di salsedine, sentirò per tutto il tempo di questa estate. Ed amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido, questi giorni in riva al mar non potrò Tecniche di sopravvivenza. Oggi stiamo parlando di come sopravvivere sotto l'ombrellone. Ci siamo collegati con Ibiza prima, abbiamo sentito un animatore di un villaggio e così ci siamo sentiti un po' anche noi al mare. E arrivano dei vostri messaggi, perché appunto stiamo dicendo come sopravvivere a quelli che rompono le scatole, qualcuno che appunto subisce gli animatori del villaggio e non sa come liberarsene, no? Durante le vacanze. Per esempio, Susanna ci dice: se uno non vuole animatori, non vai in un villaggio, ci sono tanti deserti. Per esempio, oppure ci scrivono anche: sul lettino riposo isolandomi, ascoltando la radio e facendo parole crociate. Ciao Osvaldo da Loano. Ecco, come state facendo voi per rilassarvi? Quali sono le vostre tecniche di sopravvivenza per non subire il vicino di ombrellone o non avere problemi, insomma, con i fastidi che di solito ci possono essere in spiaggia? Ma adesso vediamo quali sono le nostre tecniche di sopravvivenza. 1. La distanza minima dai vicini di ombrellone deve essere 2 metri. 2. La distanza può scendere a 1,5 metri se notate che parlano di cose interessanti. 3. Non portate oggetti contundenti nella borsa da spiaggia. Potrebbero essere delle tentazioni. A volte basta uno sguardo per scoraggiare il vicino molesto. Non fate a gara con l'animatore a chi è più simpatico. Non ve lo toglierete più di torno e poi tanto vince lui. 5. Non sfidatelo nemmeno in fatto di conquiste. Vincerà sempre lui e a non toglierselo più di torno sarà vostra moglie. Quindi occhio agli animatori. Ma siamo arrivati alla fine anche oggi. Saluto e ringrazio in redazione Alessandro Marcotulli e Carmelo Lauricella in regia. Vi aspetto domani. Oggi si è parlato di come si sopravviveva sotto l'ombrellone. Domani invece andremo sul cucuzzolo della montagna. Ciao e a domani. Fine della trasmissione. Ma io volevo soltanto... Fine della trasmissione.